We'll be right back. rientrati in studio, in diretta, Radio Città del Capo 451, in compagnia di Eliseo Scarpa e Max Macchia. Ecco, bravo. Abbiamo fatto, insomma, quasi luna di notte, e abbiamo appunto trattato... Sembra Mike, buongiorno. Abbiamo fatto quasi luna di notte, cari amici telespettatori, è vero? È vero, è quasi luna, meno 5. È vera anche America, quella che abbiamo messo fino a questo momento. America. Da dove vengo io, appunto, Mike, buongiorno. Funk 80, Mutazioni, OGM, Sugar Hill Gang, Peter Brown. Dicevamo all'inizio che non era il Peter Brown che si affermerà poi come produttore della primissima Madonna, quindi... Ma tu pensi che lo conosceranno molti quest'altro? No, in effetti tutti e due sono sconosciuti. No, ma tu hai ragione, perché è produttore di Madonna. Cioè, cosa dobbiamo fare se mettiamo musica underground? Cioè, i riferimenti sono... Hai ragione. È tipo quando vai in campagna, non è che puoi dire c'è la chiesa, c'è... non c'è niente, dai dei riferimenti vaghi. Te lo ricordi quell'albero lì? Dici, come faccio a ricordarmi l'albero? È un po' la faccenda, prima insomma scherzosamente si dicevo, infatti tu mi criticavi per questo, che la faccenda è complessa e ci si perde, e che tante volte insomma non si riesce neanche a trovare il bandolo della matassa, quindi a dipanare il tutto. Mi mancava da parecchio questa tua citazione, termine, della matassa. Appunto, la matassa ormai ti potrei chiamare Max Matassa. Max Matassa, invece a te ti chiamo Eliseo dipanare. Dipanazione di Eliseo. E quindi insomma la faccenda è un po' rizomatica. Ti piace rizomatica? Deleuze? Bravo. Quindi dovete andare un po' in orizzontale più che in verticale. Non esistono gerarchie, soprattutto per quanto riguarda le musicalità e le musiche nere. Per quanto poi, come dire, i network, i media, anzi in latino, costruiscano insomma gerarchie varie. In effetti, ad esempio, sembra che morendo Michael Jackson sia morto il re del popolo, quindi re, gerarchia, il primo, no? Si potrebbe fare anche il giochino, c'è il re, c'è il principe, quindi prince, eccetera eccetera. Vabbè, ma hai perfettamente ragione, comunque, cioè, il riferimento è assolutamente corretto, ecco. C'è il discorso orizzontale, verticale, è vero. Infatti, bisogna ribaltare nelle cosa. Musiche nere non c'è questo, questa verticalità, tant'è che Jackson era anche un personaggio che faceva, che è un po' il fantasma di questa sera, faceva musiche sia con i fratelli, insomma, anche picchiato e vessato, adesso mi viene da ridere, però insomma la storia è anche piuttosto triste, dal padre eccetera eccetera, non ha avuto una vita normale neanche, insomma, sognandosela, o forse sognandosela poi nella fine carriera, con delle cose che sono allucinanti a dir poco, sia musicalmente, infatti, che come video. Infatti, i video dell'ultimo Jackson sono veramente qualcosa che sta fuori da ogni che, non si capisce, perché non c'è buonismo, perché è una cosa... con tutta questa infanzia che poi insomma sappiamo dove ha portato, no? Oppure dove si presume che abbia portato. Sì, infatti di sicurezza non abbiamo niente, appunto, però... E poi appunto una faccenda anche che è fuori da quelle che sono delle dinamiche anche dentro la comunità nera, seppur appunto dentro Jackson 5 ci apparteneva di fatto, Jermaine Jackson, fratello più grande, anzi uno dei medi se non sbaglio, e anche un ottimo autore di funky degli anni 70, poi non seppe reggere insomma la trasformazione che avvenne alla fine degli anni 70. Adesso torniamo anche un attimo sul pezzo, poi mi dilungo un altro pizzichino, poi ti lascio la parola. No, ma sono cose giuste da portare avanti, okay, mica ti sto lì a fare il segnatempo, no? Adesso poi abbiamo molta più libertà quando d'azione, sul... anzi quasi quasi ti proporrei vai avanti tu, io vado fuori, vado a farmi un giro, mi metto. No, però va bene, no va bene, cioè, no, ma questa ci metto è un una dimensione molto molto aperta, va bene, adesso. Okay. Se me lo dici tu, certificato, me lo certificato dai, anche certo. Tu un po' alla Mike Buongiorno, va bene, allora, se me ma lo soprattutto dai, abbiamo perso, diciamo, più che tanto non abbiamo perso niente, perché il discorso è più che approfondito e interessante, soprattutto il brano che abbiamo mandato all'inizio della seconda parte. Siamo partiti proprio in maniera scientemente calcolata, come diremmo noi, a botta con la formazione che... Couch House Rhythm Section. Infatti volevo arrivare lì prima, però dicendo che alla fine degli anni 70 cosa succede? La disco liofilizza, dicevamo prima, il funk, diventa qualcosa di estremamente anche impacchettabile e impacchettato in termini commerciali, però c'è anche qualcosa che si muove sotto la disco, e prima appunto abbiamo sentito con Peter Brown, Edwin Beard Song, vabbè, un altro discorso, Zapp e quindi Trutman, Electro Funk, eccetera eccetera, quindi ci spostiamo un po' nel tempo. Per quanto riguarda invece Chaos Auto Rhythm Section, andiamo proprio nel 1977 e andiamo a trovare, come con Peter Brown, che invece è il pezzo del 78, quell'underground disco che veniva suonata tipo da gente come Larry Levan, Walter Gibbons, ovvero DJ che inventeranno di fatto l'house music. Dentro la disco c'erano anche dei sperimentatori sui generi come Giorgio Moroder, come certe cose, insomma, funk però con una mutazione in crescendo come Chic, come Rick James, cose che insomma spostavano la faccenda non semplicemente dalla plastica commerciale, ma anche da una plastificazione data dalla macchina, e quindi dalla possibilità dell'elettronica di funkizzare la macchina o viceversa, che fu fondamentale per arrivare appunto all'elettrofunk degli anni 80. Couch House Rhythm Section era un progetto di Eddie Grant, che poi insomma negli anni 80 farà successi su successi con musichette anche da quattro soldi, detta come va detta, però all'epoca appunto se ne uscì con un pezzo assurdo, e soprattutto erano delle B-side queste, perché non venivano appunto previste come circuito insomma dance, ma come una sorta di esperimento, no? Che appunto veniva messo nel secondo lato. C'è stato poi una sorta di laboratorio legato a questo, e Quincy Jones ad esempio e Michael Jackson rappresentano proprio quel laboratorio, non più underground, perché Quincy Jones, grande jazzista eccetera eccetera, virtuoso stilista del jazz, dell'orchestra soprattutto, con Jackson si inventeranno una sorta di arrangiamento talmente androide che poi appunto sarà di corpo cyborg mutato appunto attraverso Thriller, l'album insomma che consacrerà il pop degli anni 80, e sposterà poi anche la musica nera e il pop su quello che poi negli anni 90 è l'ufficializzazione dell'hip hop, ovvero R&B, ma anche cose di una certa funkitudine tipo Timbaland, quindi produzioni come Outkast, Nerd, che devono moltissimo appunto alle produzioni di Quincy Jones e Michael Jackson della fine degli anni 70, album tipo Off the Wall. Questo insomma un po' per fare il punto della situazione su una faccenda decisamente importante per la musica nera e non solo pop, perché poi di fatto molti anche artisti come Madonna appunto dello Star System riprodurranno proprio quelle musicalità nate dentro questi laboratori appunto della musica nera, sperimentali o meno che fossero, però comunque di certo con una certa testa e con pensante che appunto spostava le lancette della musica proprio in un periodo storico decisamente importante, quello della fine del 70, che tra l'altro paradossalmente andrà a impacciare tra funk e punk, sì, dentro infatti la musicalità nera, infatti con la formazione che adesso andremo a proporvi, cioè i Defunct, formazione assolutamente importante anch'essa dell'inizio degli anni 80, formazione che vedeva all'interno di questo progetto molte personalità, oltretutto personalità anche abbastanza importanti e tra virgolette ingombranti dal punto di vista musicale, cioè il grande Lester Bowie ad esempio, che proveniva addirittura dalla Ensemble of Chicago, e molti musicisti giovani, tra cui poi diciamo il nucleo che poi sarà anche presente dentro un altro progetto importante degli anni 80, fine anni 80, progetto dei Living Color, cioè, con la presenza soprattutto del chitarrista Vernon Reid, e che poi abbiamo avuto anche il piacere tanti anni fa, te lo ricordo, come no, di intervistarlo. Da Red Ronnie, sì. Da Red Ronnie, che fu, vabbè, lì la racconteremo un giorno, ma sarebbe stato bello riprendere oppure registrare la puntata, perché eravamo veramente degli extraterrestri, ma forse più degli alieni. Extraterrestri, degli alieni, ma anche un po' visti anche con un occhio un po' inquietato da parte di Red Ronnie. Questi qua sono un po'. Un po' strano, sono un po' autonomi, però, in tutti i sensi. In tutti i sensi. Comunque, formazione nata nel 1978, ha avuto questa grande capacità che giustamente Max accennava, cioè quella di coniugare punk, funk, ma anche un chiaro riferimento anche a certe coloriture più squisitamente legate al jazz. L'interesse e la particolarità appunto di unire, poi di trovare una dialettica e una forma quasi di liquidità fra questi generi, che a noi non piace neanche molto definire generi, ma diciamo correnti musicali, attitudini, linguaggi, è quello appunto anche di coniugare un linguaggio molto più bianco e uno molto più nero, e trovare appunto anche questa sintesi assolutamente azzeccata, soprattutto nel disco di esordio del 1980, dove si sentono appunto tutte queste questi linguaggi compenetrarsi, dialettizzare senza appunto oscurare l'uno all'altro, ma trovare quella sintesi, quell'equilibrio assolutamente azzeccato che poi fa esplodere dei brani in maniera assolutamente unica. Un progetto che andrà avanti per alcuni anni, poi chiuderà il progetto, ne nascerà poi in parallelo appunto il progetto anche il Vincolo e altri progetti degli altri musicisti che poi porteranno avanti altre strade. Ci andiamo a sentire dunque a questo punto, da questa importantissima formazione dell'inizio degli anni 80, comunque assolutamente caratterizzata negli anni 80 con qualche piccola coda negli anni 90, ma robe un po' così, oltretutto è stata fatta anche una reunion, pure una reunion. Classico. Che ho visto qualche anno fa, però non è stato particolarmente interessante. Comunque godiamoci dunque album omonimo Defunct 1980, il brano in assoluto di apertura che è assolutamente esplosivo. Then what you can afford? Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Wear some clothes that fit them well. Border places that you wouldn't dare enter even in your wildest dreams. Not looking nearly like the ad you see in the paper. Slam it to them at the first red light. Tear out the door and drag her out to the open. Give her some air, mouth to mouth breathing. As long as her heart keeps beating. Your mouth is on her, she breathes your air. She moves as you let her move. There's nothing in between you. You are all she feels and knows. She holds on you forever. The last thing that she sees is your smiling face. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. To the beat of the dance of death. Make them dance, make them dance. To the beat of the dance of death. On the windowsill, a step to the left, and the rest of the way fly easy. Then step to the right in front of a car that moves to the beat of the dance of death. you by. Steering the wheel of a faster car with one hand on the five, a nicer chick than what you can afford. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Some clothes that fit him well. Border places that you wouldn't dare enter, even in your wildest dreams. Not looking nearly like the ad you see in the paper. Slam it to them at the first red light. Drop the door and drag out to the open. Give us some air, mouth to mouth breathing, as long as the heart keeps beating. Your mouth is on hers, she breathes your air. She moves as you let her move. There's nothing in between you. You are all she feels and knows. She holds on you forever. The last thing that she sees is your smiling face. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Benissimo, rientrati dopo questo splendido lavoro, Defunct, ricordiamo ancora 1980, il disco omonimo di apertura della serie discografica di questo progetto, progetto appunto che poi continuerà per alcuni anni e avrà soprattutto nei primi due dischi poi il livello più importante, quello legato agli anni 80, i primi anni 80. Poi continueranno appunto a produrre alcuni materiali fino alla chiusura e poi la riapertura appunto avvenuta in contemporanea in un live in Europa, che appunto però lasciava il tempo che trovava tra 2003 e 2004. E è importante anche ricordare che comunque ha avuto anche un piccolo collegamento addirittura con alcuni musicisti importanti, ad esempio il tributo blues a Jimi Hendrix e Muddy Waters, che ha visto la presenza dell'organizzazione anche all'interno degli stessi Defunct nel 1986, e poi appunto continuerà soprattutto con il lavoro di Bowie, che Lester Bowie, che comunque ha cercato di portarla avanti con altri inserimenti, altre collaborazioni, questo progetto che però aveva poi piano piano anche perso la propria vivacità espressiva e musicale, e chiaramente poi gran parte anche degli altri musicisti componenti del progetto hanno portato avanti altre strade in parallelo, forse addirittura anche esterne al progetto stesso. Da Defunct abbiamo voluto appunto coniugare Defunct con un altro grande che prima è stato anche ben citato in termini verticali della strutturazione verticale delle gerarchie, appunto sei morto il principe, sei morto il re del pop e ancora vivo il principe, E va bene, facciamo i giochini. Chiaramente la faccenda è molto più complicata, speriamo insomma di essere stati un po' più chiari in questa seconda parte rispetto alle varie bombe insomma che avevamo lanciato nella prima, ma d'altronde appunto è proprio con anche queste esplosioni che si hanno, soprattutto poi tra l'altro tra la fine degli anni 70 e i primi 80, che la cosa si complica e diventa veramente una sorta di Babele sonora, e con tutto poi le postmodernità che ci potete inserire dentro, sicuramente dentro la mutazione funk degli 80. Se prima abbiamo citato insomma le produzioni di Jones insieme a Jackson, non si possono non citare i primi esperimenti che prima abbiamo anche messo con Sugar Hill Gang e tutti i vari collettivi di Grandmaster Flash eccetera eccetera, Nucleus, Egyptian Lover, Cybotron con Joan Atkins, che addirittura dall'elettro poi dei primissimi 80 passerà proprio come fondatore della techno con Model 500, quindi veramente un quacervo insomma di sonorità, di attitudini che stavano nascendo da incroci quasi impossibili anche tra macchina, funk, disco appunto che mutava e diventava strada attraverso appunto progettualità come quella di Coach House Rhythm Section, e con una sintesi assolutamente geniale, che ne vogliate dire, che ne pensiate insomma sulla faccenda, ma di questo io sono assolutamente convinto. In questi anni sei anche convinto abbastanza, Eliseo, assolutamente, appunto di una sintesi assolutamente geniale di Prince, che nei primi anni 80 riusciva a far suo sia un linguaggio funk di Stan the Family Stone, del rock psichedelico di Hendrix, della psichedelia anche bianca inglese dei Beatles, e di esperimenti che andavano a toccare sia il jazz che certe faccende appunto legate all'elettro, quindi alla strada, e con una fantasia assolutamente straordinaria, e soprattutto con un linguaggio sintetico che veramente ai più sembrò assurdo, e molti anche così in maniera piuttosto così superficiale, molto grossolana, consideravano appunto nuove forme commerciali seppur piuttosto illuminate. In realtà poi la carriera più che trentennale di Prince e gli ottimi anche dischi, tra l'altro con il ritorno del suo nome negli anni zero, insomma ci dirà proprio, ci informerà su questo mondo eclettico, su questo grande caleidoscopio che appunto è la sonorità del principe di Minneapolis. Chiaramente non potevamo mettere un pezzo così di Prince, no, come hai messo pure la copertina con Prince in mutande. Ma questo è un gran disco. È vero, Dirty Mind. Dirty Mind dell'80, considerato uno dei più migliori. Sì, vabbè, mutande, però Prince vabbè, giocava molto anche no, ma appunto era proprio quella sporcizia, ecco, quella mutazione insomma di costumi. Se George Clinton Funkadelic esagerava con costumi assurdi presi poi da Sarra, quindi cosmicaggiamenti tra il kitsch e l'assurdo, no? Poi insomma il mutande non è mica come il tuo conquilino, insomma. Cioè, a un certo fa schifo oltre, insomma, vabbè, insomma, non parliamo del mio conquilino che gira un po' in mutande, ma non è niente di grave, insomma. Fisicamente ci assomiglia, uguale, uguale a Prince, ma insomma, piuttosto ti faccio una domanda: sai quanti anni ha Prince? Lo sai? Quello che è morto aveva 50, questo qua ne ha 52-53, secondo me. È dello stesso anno di Michael Jackson. Ah, è del 58 e hanno una distanza di 2 mesi. È nato prima Prince, di 2 mesi. Di più vecchio. Leggermente di 2 mesi. Poi vedi, dopo faremo anche un giochino 51, tra, no? In realtà. Faremo un giochino tra Prince e Michael Jackson, c'è una faccenda anche lì piuttosto curiosa. Bene. Chiaramente non potevamo ammettere cose più troppo conosciute, rischiamo quella denuncia proprio da Prince, perché lui è gelosissimo delle sue musiche. Andiamo a prendere un bootleg. Che significa poi bootleg nell'era dello scaricamento generale? Appunto. Bye. Oh,

Grande lavoro questo di The Deal, progetto in questo caso disco Street Beat con l'omonima canzone che ha dato il là all'album, uscito nel 1983, una formazione che proprio con questo disco è riuscita addirittura ad entrare nella favolosa e mitica top 100 delle vendite, non che ce ne freghi niente. Soldoni, A loro sicuramente è andata bene. La cosa che però vorrei precisare, comunque denotare, che appunto un brano estremamente interessante, sperimentato, perché ritmiche elettro mischiate comunque ovviamente a rimandi funk che stanno dentro comunque il linguaggio elettro, ma anche momenti dove la dialettica forte anche con passaggi rappati e aperture soul che dimostrano appunto una continuità e anche un tributo storico a tutta la musica nera, un percorso assolutamente interessante, un brano che oltretutto durava più di 8 minuti ed è entrato appunto in classifica, per dire appunto che anche lì la grande bravura di The Deal di riuscire a trovare quella formula intelligente di coniugare pop, sperimentazione, dance, ritmica e tutto ciò che possiamo pensare all'interno della musica nera anni 80, un progetto veramente molto molto valido, costituito da Babyface, così chiamato in realtà Kenny Annons, Mark Rooney e Bobby Summers, che ha avuto poi all'interno anche vocalist importanti come Carlos Satin Green ed Arnold D. Bristol e Stanley Burke, oltre a Kevin Robertson, che era, diciamo, quello che seguiva la parte elettronica computeristica con la batteria elettronica che veniva utilizzata appunto come gran parte nei progetti elettro degli anni 80. Da The Deal con il disco appunto Street Beat andiamo a recuperare poi in realtà che abbiamo fatto un grande blobone. Sì, abbiamo messo prima Prince e poi una strana mutazione funk, abbiamo preso due piccioni con una fava, ovvero Prince insieme a George Clinton, i due stringeranno un sodalizio che tuttora continua alla fine degli anni 80 e Clinton appunto rileggerà insieme a Roger Nelson, così chiamato insomma l'anagrafe Prince, e un po' per Erotic City, che tra l'altro diventerà anche una cover abbastanza celebre anche per una versione di Arthur Lindsay, quindi anche qua una sorta di gioco di specchi, no? Tra nero, bianco, musiche anche che si spostano poi decisamente, no? Dentro un corpo che non si vuole neanche più funky, forse diventa qualcosa di altro, di assolutamente fantasmagorico, anche proprio per la visione di Clinton aperta veramente alla una cosmicità musicale che è anche poi una cosmicità di attitudini, di passaggi che avvengono dentro il corpo delle musiche nere, che si sposta appunto, diventa una sorta appunto di cyborg dance, di assurdità insomma tecnologica, che però ha tanto d'umano e viceversa, e ha tanto anche di macchina. Quindi un paradosso interessante che dentro le musiche di Prince, ma anche dentro quelle dei 70 di Parliament e Funkadelic di George Clinton, sicuramente stavano mutando proprio completamente la musica nera e anche quella pop, come appunto stiamo cercando di spiegare questa sera. Non è un caso insomma che Coach House, Rhythm Section, The Funk, Prince e Deal siano stati appunto un passaggio fondamentale dentro questa seconda parte di 451 frammenti sonori, che va a trovare il suono di Miami, altro suono alieno, assurdo, musicalità che vanno anche a coprire ad esempio in Sud America, non un caso che prima si citava Arthur Lindsay con Erotic City come cover di Prince, e poi appunto rielaborata anche da Clinton, che abbiamo sentito. Miami, città dove si suonava un elettro piuttosto particolare, extra tease, suonavano appunto questa strana mutazione tra funk, musica caraibica, assurdità cosmiche, dei Kraftwerk insomma immaginati dentro un corpo nero, e insomma il delirio. E poi con E.T. immaginatevi che cosa può essere questo pezzo, perché lo sentirete, proprio inizia con E.T. E.T. Funhouse. E.T. Funhouse. Ebbene, extra tease, avete sentito le T che interrompeva il pezzo. Siamo andati a trovare e troveremo anche tra pochissimo il suono di Miami, appunto questa elettro virata in maniera assurdista, direi abbastanza minimale. Dire di sì, proprio molto minimale, poi ovviamente poi apriremo un capitolo abbastanza ampio, ma si sente molto all'interno di Extra Tease un aspetto oltre che minimale, anche con un certo richiamo anche a certe atmosfere e a certe sonorità e timbriche kraftwerkiane, anche nell'uso delle voci. Sono voci robotizzate, però differenti ad esempio da quelle che abbiamo inserito nel corso di stasera o anche in altre puntate dove abbiamo affrontato l'elettro. È una robotizzazione molto teutonica all'interno di un processo invece prettamente afroamericano, dunque appunto la citazione è una mutazione, e anche questo collegamento piuttosto anomalo, assurdo, strano, che va a incontrare forse due differenti urbanità o due differenti modi di sentire la tecnologia o l'aspetto tecnologico nel periodo storico. Sì, e continuando appunto a questo strano connubio tra Afro e Germania, andiamo a trovare questi altri matti, si chiamano Magotronics, con un suono un po' più battuto. Qua si vede forse il secondo aspetto di certo elettro. We'll be right back.

Incredibile brano questo, tratto da un disco assolutamente da riascoltare, anche perché estremamente ancora avanti dal punto di vista musicale, moltissime sonorità poi riprese anche in questi ultimi anni con questo ritorno un po' dell'elettro, sì, anche un po' obliquo, diciamo, cerco di essere neutro dell'elettro. Sì, no, visto che stasera stiamo parlando tanto di pop, chissà, poi anche la provocazione nasce da questo, perché ogni tanto ci sono arrivate nel corso degli anni telefonate quando mettevamo qualcosa di un po' troppo pop, poi quel po' troppo, e stasera insomma anche con questi riferimenti vari a Jackson, no? E, no, vorrei tanto sapere insomma che diavolo si pensa in relazione anche a certe forme pop che stasera sono passate in maniera piuttosto insomma sostanziale dentro 451 frammenti sonori, ma che ogni tanto insomma ci piace inserire. Qua c'è del pop assolutamente geniale, assolutamente elettro, pop, dell'elettronica, dell'elettronica, del funk, oltretutto rimasticato. La cosa che ha colpito insomma di questo disco, che poi Funk Theology, che è uscito nel 1984, si tratta di Shango, perché non l'abbiamo ancora detto, progetto costituito da questo grande geniaccio assurdo che è Africa Bambaataa, con la presenza comunque, la collaborazione del suo caro amico e nostro anche amico Villoso, anche se non lo conosciamo direttamente, che per anni insomma abbiamo messo in tutte le sacche, in tutte le sacche, perché ha portato avanti tanti di quei progetti tramite Mattia, ma altre cose, tra l'elettronica più incredibile, l'improvvisazione radicale, l'isolazione di tutto. E appunto è interessante soprattutto in questo lavoro di Shango, in particolare in questo brano che abbiamo selezionato da appunto dal disco Funk Theology, è la grande capacità di riuscire a coniugare questo funk anche anni 70 con alcuni elementi proprio che richiamano chiaramente il funk anni 70, con appunto la ritmica elettro e con certe frammentazioni appunto molto più legate al periodo anni 80, ma riuscire a fondere bene gli anni 70 e gli anni 80 come ha fatto Shango in questo brano in particolare è sicuramente un dato da cogliere, da evidenziare, come tutto il disco uscito nel 1984, che poi all'interno c'ha anche dei brani estremamente accattivanti, in particolare il primo brano, che ha delle aperture con dei synth spaziali incredibili, che metto subito così. Ecco, bravo, questo qui sotto sotto, così siamo contenti, chiudiamo appunto, andiamo verso la fine della trasmissione con l'apertura totale, mo ci voliamo nei pianeti rossi, va? E volandoci, avvolandoci, inoltrandoci nel volo, ditelo un po' come diavolo vi pare, sono tanto inventato. Rapologist, anche per coprire un altro settore della faccenda piuttosto grossa che stiamo trattando questa sera, che abbiamo finito, insomma stiamo per finire, ovvero le mutazioni funk 80 dentro le musicalità nere, il sound nero, che poi appunto si trasformeranno in pop to cure sui generis. Rapologist, elettro inglese, pochissimo conosciuta l'elettro inglese, anche perché insomma veniva da New York, dai ghetti afroamericani, però si sviluppa una strana forma insomma di elettro in Inghilterra, che ad esempio verrà portata anche avanti da gruppi paradossalmente lontani da quel genere, poi in realtà non così come si vorrebbe pensare, tipo Cabaret Voltaire, che unirono il funk dentro la musica elettronica soprattutto nella seconda parte della carriera, appunto creando una sonorità assolutamente inedita. Però c'erano anche piccole comunità nere che già negli anni 70 avevano fatto qualche cosa di funk. Poi ci sarà l'High Energy, che sarà una sorta di disco ultra pompata di popper, ultra gay come sonorità, come discoteche, come località, dove appunto si suonava l'High Energy. Sylvester diventerà un po' il Pigmalione di quella faccenda, quindi anche un funk che si sposta direttamente dentro la macchina. Ma anche una faccenda che appunto da elettro passerà quasi direttamente a techno inglese. Rapologist sono un po' gli antesignani di quello che sarà la Warp Record, dei piccoli contatti ci sono attraverso appunto i fondatori poi della Warp, con sonorità che poi verranno richiamate da certo Aphex che giocava con l'hip hop, tipo Window Licker, soprattutto da Duke Vipert, insomma gente che era cresciuta poi di fatto con l'elettro lì, che non si ricorda mai abbastanza. Autechre, che più di una volta hanno detto siamo cresciuti con il suono di Miami, che prima abbiamo ascoltato con Extra Tease e Magotronics, e che in Inghilterra aveva delle strane filiazioni come Wild Style, dove usciranno Massive Attack, Ronnie Sides, Tricky, insomma buona parte del trip hop, della drum and bass degli anni 90, una faccenda piuttosto varia, ampia, e qua veramente di nuovo si potrebbe aprire un'altra trasmissione, certo. Non lo facciamo. Rapologist da quindi l'Inghilterra elettro, da quella piccola porzione che appunto poi darà sfoggio veramente di un freestyle assolutamente fantasioso. Everybody. stereo, così finisce questo pezzo di Apologist. Con lo stereo. Perché dovremmo essere sempre stereo. Invece sempre spesso stereo. Siamo mono. Siamo un po' monotoni. Monotoni in tutto, capito? Monotoni. Ma poi lo stereo era uno degli immaginari, no? Degli anni '80, sì. La stereofonia. Negli anni 70 c'era addirittura la quadrifonia. La quadrifonia, cioè, che andò malissimo. Sì, va bene, facendo insomma un po' così. Anche quella si voleva un po' allargare il dato tecnologico, poi fu una trisciata unica. Vabbè, vabbè, dai, succede ancora. Stereo, lo stereo funziona. Sì, anche tu contento. Sei un po' stereo. Beh, certo, non sei mono, cuffia, dai. No, sono stereo, dai. Sei stereo. Ho dai. Delle cadute mono, ma questo riguardano tutti. Mono-ossessive, insomma. Mono-ossessive. Mono-tematiche. Anche con le mutande, le famose mutande. La mutanda mono. La mutanda mono, ma c'è anche quella stereo, mono? Sì, va bene. Poi me lo spieghi. Mutande stereo sono molto importanti. Chissà che cosa è stereo dentro. Vabbè. Dentro le mutande. No, sono proprio le mutande stereo. Le mutande stereo, sì. Vabbè, con due casse. No, cioè, sai, le mutande hanno due aperture maschili, diciamo. Ah, ho capito. Cioè, allora ce n'è una, però ci sono anche quelle che hanno l'apertura a destra e a sinistra. Quelle vecchie, quelle antiche, quelle anni 50 che avevano l'apertura. Se le mutando. Ma tu usi cose, non puoi sapere. No, no, se sono tu non sei un amante degli slip, no? Ma no. Tu sei un amante del. Come si chiama? Non mi ricordo. Il Bermuda, cos'è? Sì, dello striptease. Sono amante. I boxer, tu sei un boxer, tu sei un uomo boxer. Sono un boxer, sì, poi un cane, c'è anche uno che è amante di quello dello slip, che sta sì, a casa vabbè, tua. Quello come Prince prima, sì. Ma va lasciamo bene, perdere basta, gli slip. Adesso rischiamo poi di deragliare come al solito, abbiamo anche sforato l'ora. Ma siamo vicini all'estate, che non faremo. No, tu fai le vacanze invece. Vacanza, sì, insomma. Diciamo così, non è proprio ormai sono sempre lì praticamente una vacanza fissa. Una fuga prestabilita. Vabbè, ma in epoca di crisi, fuga prestabilita saranno molto di moda. A Bologna ci sarà molta crisi, ma in tutti i sensi qua. Comunque niente, vi salutiamo chiaramente e vi aspettiamo. Buonanotte a tutti, buonanotte al secchio. Soprattutto mancava, al secchio. Buonanotte al secchio, mancava sul serio, Cotilloni invece continuano a esserci, tornano puntualmente. Un saluto nero. Nero, non in quel senso, nero. No, black nel senso, black, insomma. Ecco, non nero. Ci capiamo, anzi, tutt'altro. Siamo sempre potremmo abbastanza rossi. Sì, un saluto abbronzatissimo. Abbronzatissimi. Abbronzatissimi, come appunto saremo tra poco, tutti sì. Al mare a mostrare le chiappe chiare. Bellissimo, insomma. Anche questa citazione, guarda, stiamo andando 60. Proprio nel luogo comune anni 60 qua, vabbè. La chiceria anni 80, vabbè, poi metteremo pure i Vatussi. Chiaramente diciamolo anche che dovrebbe essere l'ultima trasmissione la prossima settimana insieme, poi non si sa se faremo una cosa sì, così, uno special tra repliche, cose nel che luglio, vanno, non si caloroso, capisce. Non si sa, però la prossima settimana ci saremo, dovremmo fare diciamo la chiusura ufficiale. Ma non dovevamo fare riferimento temporale? Ah no, ma il prossimo anno? Il prossimo anno, la prossima settimana che non diciamo qual è, potrebbe essere di luglio, agosto, settembre. Mi è beccato, io sto attento. Proprio non potremmo essere anche a novembre ma potremmo essere anche a dicembre in realtà sì. Infatti c'è freddo. Va bene, buon Natale. Ciao.